La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Con l'articolo 70 si passa al procedimento di formazione delle leggi. L'articolo 70 stesso stabilisce a chi spetta la funzione legislativa. Spesso questo articolo viene indicato come modello esemplare di come dovrebbero essere scritte le leggi. Infatti bastano solo 9 parole e una sola frase per attribuire la funzione legislativa collettivamente alle due Camere. Del resto il Costituente scelse un linguaggio molto semplice e diretto proprio perché voleva parlare ai cittadini. L'Italia aveva bisogno di conoscere le nuove regole. Era un paese disastrato, era un paese povero, era un paese quasi analfabeta e quindi ci fu un impegno preciso dell'Assemblea Costituente per scrivere articoli chiari e che tutti potessero comprendere. L'ultima disposizione transitoria, la 18ª, prevede che la Costituzione restava fissa per tutto l'anno 1948 in tutte le case comunali, in maniera che tutti i cittadini potessero leggerla e conoscerla. Ma torniamo al testo dell'articolo 70. L'articolo 70 pone la centralità della legge e quindi le due Camere in un sistema bicamerale devono approvare in testo identico le leggi. Le leggi cosa sono? Le leggi sono espressione della volontà generale. Questa frase ci fa tornare alla mente la carta rivoluzionaria francese del 1789 che proclamava esattamente la loi expression de la volonté générale. Cioè l'idea che il sistema rappresentativo deve essere retto e governato da atti emanati e votati dai rappresentanti del popolo. In questo modo, attraverso la rappresentanza, l'atto parlamentare, la legge, diventa espressione della volontà generale. Per questa ragione, il sistema delle fonti del diritto, cioè il sistema che regola la vita associata, si basa sulla legge e la legge deve essere approvata dal Parlamento. Ancora per questa ragione, tutta la Costituzione è costellata di riserve di legge, cioè di ipotesi in cui solo la legge può disciplinare materie importanti e materie principali. L'abbiamo visto ampiamente soprattutto sui diritti di libertà, quando le garanzie di tutela dei cittadini devono essere previste per legge. La libertà personale può essere limitata solo nei casi e nei modi previsti dalla legge. La legge è la massima garanzia di democraticità e la legge viene affidata bicameralmente al Parlamento, alle due Camere.